Jack Devi a cavallo fischia allegramente. Risuona il bosco attorno a lui, a una donna ha preso il cuore, a una donna ha preso il cuore. Quanti anni hai bambina, quanti ne hai tesoro? Lei rispose sussurrando, pochi mio signore, 16 domani. Getta via quei tacchi alti di buon cuoio spagnolo e vieni qui tra l'erba alta che ci divertiremo, che ci divertiremo. Notte fonda ritornò e chiese del suo amore. La serva fissa lo guardò e via con Blackjack Davy, e via con Blackjack Davy. Sellate il mio stallone nero, veloce come il vento, cavalcherò tutta la notte fino a un nuovo giorno, fino a un nuovo giorno. La notte intera cavalcò e giunse in riva a un fiume, e la sua sposa ritrovò in braccio a Blackjack Davy, in braccio a Blackjack Davy. Getta via quei guanti blu e dammi la tua mano, cavalcheremo a casa assieme e mai ci lasceremo, mai più ci lasceremo. La sua mano gli lasciò bianca come il giglio, in volto fisso lo guardò e poi gli disse addio, e poi gli disse addio. Era notte, io dormivo tra te e il mio bambino, ora è notte, io riposo tra le braccia di un bandito, tra le braccia di un bandito. Oh!